Hashtag Autotrasporti. Hashtag Autotrasporti, buon pomeriggio da Andrea Ferro. In apertura oggi ci rivolgiamo ai giovani che intendessero intraprendere il mestiere di autista di camion, o comunque alle mamme, padri e nonni che ci stanno ascoltando. Giovedì potrebbe essere il giorno decisivo per incamminarsi su un percorso che pare destinato a garantire interessanti sbocchi occupazionali, come conferma la crescente offerta di lavoro. Cosa succede giovedì? Sarà il Click Day, cioè dalle 9 del mattino i ragazzi interessati a questa prospettiva potranno aderire al progetto Giovani Conducenti, promosso dall'Albo degli Autotrasportatori in concorso con vari soggetti, dalle associazioni di categoria ad Anfia e Unrae, passando per le autoscuole. Appunto, a colpi di click, giovedì prossimo sarà possibile collegarsi al sito www.giovaniconducenti.it, ripeto www.giovaniconducenti.it, e compilare il relativo form. Come precisato nel regolamento, le adesioni verranno registrate sulla base dell'ordine cronologico di inserimento e quindi saranno ammesse fino ad esaurimento dei fondi disponibili. Per ricapitolare le modalità e il significato dell'iniziativa, ci siamo rivolti alla presidente del Comitato Centrale dell'Albo degli Autotrasportatori, Maria Teresa Di Matteo. Partiamo dai requisiti richiesti. I ragazzi devono aver compiuto il 18° anno di età e non aver superato il 29°. Devono avere la residenza anagrafica o normale in Italia, ai sensi dell'articolo 118 del codice della strada. Devono essere in possesso di patente di guida almeno di categoria B e quindi poi devono avere, diciamo, come dire, i requisiti di idoneità psicofisica alla guida dei veicoli richiesti, ove, diciamo, debbano anche conseguire la patente di categoria C, e così anche i requisiti morali. Non devono essere stati rinviati a giudizio e non devono aver riportato condanne penali. Il progetto si svolge in due fasi. Nella prima i ragazzi conseguiranno il CQC, cioè il certificato di abilitazione professionale, e qui sta un po' il cardine dell'iniziativa. Il costo del corso e quindi della prova sarà sensibilmente ridotto. In sostanza, le autoscuole che aderiscono al progetto praticheranno una riduzione in partenza del 15% e il costo scontato sarà per l'80% finanziato dal Comitato Centrale dell'Albo Nazionale degli Autotrasportatori. Quindi, in sostanza, i ragazzi pagheranno solo il 20%. Terminata la prima fase, si passerà alla seconda. Sentiamo ancora Maria Teresa Di Matteo. Debbono rendersi disponibili, chiaramente, dopo questa fase, dopo aver conseguito il titolo abilitativo, quindi aver fatto l'esame, a frequentare il tirocinio formativo per un periodo complessivo fino a 6 mesi. Stiamo ancora mettendo a punto, diciamo, con le associazioni di categoria il modus operandi per questi stage formativi, ma insomma, come dire, mi sembra che ci sia una forte attenzione delle imprese a questo, diciamo, al progetto nel suo complesso ed anche, diciamo, a questa volontà di avere, diciamo, i ragazzi presso le proprie sedi. Come dicevamo, a chiedere una nuova generazione di autisti è il mercato del lavoro. Il mestiere è profondamente cambiato rispetto ai vecchi cliché. Oggi guidare un camion presuppone conoscenze tecniche specifiche e anche una formazione adeguata in termini di leggi e norme. Sentiamo ancora il presidente del Comitato Centrale dell'Albo degli Autotrasportatori, Maria Teresa Di Matteo. Abbiamo letto anche di studi europei che hanno verificato che, diciamo, che ci sono sempre meno figure professionali specializzate in questo senso, anzi richiamavano gli stati, diciamo, ad adottare iniziative proprio per far capire, diciamo, che in realtà questa può essere, diciamo, una professione specializzata che offre degli sbocchi professionali concreti. Servono giovani, no, che comunque abbiano, come dire, entusiasmo e che abbiano, come dire, la capacità di essere delle figure un po' tutto tondo, no, di riferimento. La scorsa settimana il crollo di un altro cavalcavia a Fossano, il terzo in meno di 6 mesi. Per fortuna questa volta non ci sono state vittime, come invece era accaduto ad Annone Brianza ad ottobre e a Castelfidardo a marzo. Al di là del fatto che ogni caso è una vicenda a sé stante, questa sequela di episodi ha portato alla ribalta delle cronache l'emergenza innescata dalle condizioni delle infrastrutture stradali. La nostra rete invecchia sia in termini fisici che sotto il profilo dell'adeguatezza alle mutate esigenze della mobilità e della logistica. Su questo fronte, in seguito al crollo di Annone Brianza, si è materializzata un'emergenza nell'emergenza. Cioè, in molti casi gli enti proprietari delle strade non hanno più concesso le autorizzazioni per il transito dei trasporti eccezionali su ponti e viadotti. Talvolta, per rilasciarle, è stato chiesto alle stesse imprese di autotrasporto di periziare e certificare così la stabilità delle infrastrutture che si intendevano percorrere durante i tragitti previsti. Una situazione a suo modo paradossale. Il risultato è questo: carichi fermi, ripercussioni pesantissime su vari comparti produttivi, soprattutto in certe aree come la Lombardia. Si attende una direttiva da parte del Ministero che possa favorire un chiarimento sull'applicazione delle normative vigenti e nel frattempo, dopo la tragedia sfiorata a Fossano, il mondo dell'autotrasporto è tornato alla carica. Il presidente di Conftrasporto Paolo Uggè ha sollecitato una mappatura di tutti i ponti e i viadotti per verificarne la tenuta al passaggio di mezzi particolarmente pesanti, quali appunto i carichi eccezionali. Sulla questione infrastrutture e sicurezza stradale vista dal mondo dell'autotrasporto abbiamo intervistato Sergio Lomonte, segretario nazionale di Confartigianato Trasporti. Come dire, vediamo il problema da due punti di vista differenti, sicuramente quello strutturale riguardante le infrastrutture viarie, autostradali e stradali, che chiaramente ai bisonti della strada non appaiono tante volte così comode ed efficienti e che quindi minano la sicurezza a tutti gli effetti, facendo anche avvertire l'autotrasporto come problema per la sicurezza sociale stradale. Quando in realtà i fenomeni, e questo è il secondo risvolto della medaglia, i fenomeni che accompagnano l'insicurezza sulle strade, tante volte noi li adduciamo a questioni di tipo normativo. Penso alla questione dei costi minimi della sicurezza, appunto stradale e sociale, che noi vogliamo, ovvero quei costi inderogabili sotto cui non si dovrebbe andare nella fissazione del prezzo del trasporto, proprio perché garantiscono la tutela della sicurezza stradale e sociale. Penso ai mancati controlli sulla concorrenza sleale dei vettori esteri, guardiamo quello che sta succedendo sulle strade italiane in Liguria, pensiamo all'inversione della CISA qualche mese fa. Quindi noi crediamo che un'azione di prevenzione come quella che noi stiamo facendo presso i nostri associati e presso le imprese, ma contestualmente un'azione di controllo preventiva sulle strade ed autostrade italiane, possa garantire il rispetto delle normative sulla sicurezza sociale e stradale. In tema di sicurezza stradale, la notizia di questi giorni è stata l'annuncio del vice ministro Riccardo Nencini di un giro di vite nei confronti di chi usa il cellulare mentre guida. Ricordo che, stando alla media europea, 3 incidenti su 4 sono provocati dalla distrazione. In questa casistica, l'utilizzo improprio dello smartphone rappresenta il comportamento di gran lunga più diffuso. Il governo, attraverso un decreto ad hoc, come già accaduto con l'omicidio stradale l'anno scorso, vuole arrivare alla sospensione temporanea della patente già alla prima violazione. Oggi questa sanzione è prevista solo in caso di recidiva. Sull'iniziativa allo studio del governo e sul nuovo codice della strada, che è il caso di dire sta seguendo un percorso accidentato, a lungo impantanato nelle sabbie parlamentari, abbiamo intervistato il presidente di ACI, Angelo Sticchi Damiani. Questa è un'idea interessante, un'idea buona. Noi abbiamo fatto una campagna lo scorso anno proprio sull'uso del telefonino in auto. Purtroppo il codice della strada, ahimè, sembra che non veda la luce prima della fine della legislatura. E questo è un peccato, anche perché si è lavorato tanto in questi 5 anni, la Commissione Lavori Pubblici della Camera e Trasporti del Senato hanno fatto veramente un grandissimo lavoro. Tutto questo rischia di perdersi, forse qualche decreto che almeno le cose più importanti, raccolgo le cose più importanti per renderlo prima della fine della legislatura attuare, questo sembra molto importante e molto giusto quando parliamo di sicurezza stradale e soprattutto di gente che continua a morire purtroppo sulle nostre strade. Soprattutto le categorie deboli, ciclisti, pedoni. Su quello bisogna fare di più. Quello bisogna fare molto di più, è inaccettabile che il 46% dei morti avvenga in città. Qui bisogna lavorare, bisogna investire delle risorse che tanto ritornerebbero abbondantemente dal minor costo sociale che c'è da questi incidenti, che sappiamo essere altissimo. Secondo me è un problema che va affrontato insieme con le municipalità, insieme con i sindaci. E l'ACI lancerà in questi giorni proprio una campagna con tutti gli automobilclub provinciali per rendere la città più sicura.